Presto la vita dei lavoratori nei setifici non ebbe più misteri per lui. Erano accorsi da tutte le parti della Cina. La fame, la povertà e le guerre civili li avevano fatti rifluire a Shanghai, dove li attendeva un destino di poco migliore di quello a cui erano sfuggiti. A Shanghai, tuttavia, vivevano, cioè non morivano di fame e non c'erano più soldati a farli oggetto di angherie. Come venire in aiuto a quei disgraziati divenne lo scopo primo ed ultimo della vita di Aiwan. A scuola studiava quel tanto che era necessario per non essere rimproverato e a casa aveva cura di sbrigare in fretta le sue faccende così da potersela svignare senza dare nell'occhio. Tutto diventava un sogno per lui, solo quella povera gente laggiù era realtà. Poteva fare ben poco. Ma la stessa coscienza dell'esiguità dei risultati raggiungibili lo confermò nei suoi propositi. La gratitudine di quei disgraziati aveva qualcosa di bruciante, di sconsolato, spesso accovacciato con loro sotto le miserabili baracche di stuoie, in qualche gelida giornata di tardo autunno. Rimaneva silenziosamente a guardarli, poi uno del gruppo diceva: "Tu parli per pura bontà di cuore e tuttavia non serve a niente, nessuno può aiutarci. La verità è che non abbiamo altro modo di procurarci il nostro misero cibo. Chi ha bisogno di noi? Nessuno, in nessun luogo ha bisogno di noi e a nessuno importa che noi si viva o si muoia." "Ma tocca a voi pensarci", rispondeva lui. "Ma che cosa possiamo fare?" dicevano. "Nulla, e lo sappiamo bene." A poco gli riuscì di persuaderli che a qualche cosa servivano. "Dovete avere forza, abbastanza per sperare", diceva loro. "Abbandonare ogni speranza e rinunciare all'indomani, che dico, all'oggi stesso." Non fu facile persuaderli che qualche motivo di sperare c'era ancora. Piano piano, in settimane di lento lavorio, riuscì a indurre alcuni uomini a riunirsi all'aperto in una località poco frequentata e in quello spazio cominciò a impartire loro i rudimenti dell'istruzione militare che egli aveva a sua volta ricevuto. Quelli non se la sentivano granché, ma lui faceva la voce grossa e li stimolava: "Su, quelle teste! Verrà giorno in cui dovrete pure combattere per la vostra causa!" Aveva spiegato loro l'intero previsto svolgimento dei prossimi avvenimenti, come l'esercito rivoluzionario sarebbe calato lungo la valle del fiume, tutto travolgendo al suo passaggio, come sarebbe seguito uno sciopero generale negli stabilimenti, dappertutto si lavorava per quello sciopero, e come nei punti prestabiliti si sarebbero trovati reparti di operai, uomini che avrebbero marciato, che sapevano sparare e resistere agli attacchi dall'interno, mentre l'esercito rivoluzionario avrebbe operato dall'esterno. Il gruppo ascoltava inguaribilmente dubitoso. Uno disse: "Siamo come gente che scappa da un drago per trovare una tigre sul suo sentiero." Un giorno finalmente Aiwan gridò: "Rimanga soltanto chi crede a quello che dico." I più anziani non si fecero ripetere l'invito e subito tornarono alle loro catapecchie, preferendo le miserie che già conoscevano. Ma 17 giovani rimasero e costituirono il primo nucleo della schiera di Aiwan. Anch'essi, però, rimasero dubitosi fino al giorno in cui egli diede a ciascuno di essi una rivoltella. La situazione, infatti, maturava rapidamente col passaggio della stagione dall'autunno all'inverno. Le rivoltelle erano state fornite da certo armaiolo guadagnato alla causa rivoluzionaria a gruppi di 10 per volta. Aiwan ne reclamò 18, una per sé e una per ognuno dei suoi 17 uomini, ai quali le distribuì di notte, passando di baracca in baracca. Le armi finirono celate dai miserabili nella paglia o sotto mucchi di stracci. A ogni cospiratore impartì poi delle lezioni di tiro in incontri clandestini in remoti angoli della campagna. Se qualcuno voleva sapere che cosa facevano, la risposta era sempre quella: cacciavano. I primi esercizi militari si erano svolti senza armi, ma ora il possedere una rivoltella dava a ognuno una forza nuova. Aiwan non si concedeva requie. Ogni giorno usciva alla chetichella dal portello del giardino, di cui aveva corrotto il custode, servendosi della chiave che questi gli aveva data. "Anche voi", gli aveva detto il custode, "siete come Aiko, giovine signore." Aiwan sorrise. Credesse pure il vecchio che lui, Aiwan, usciva per convegni galanti. Così passò l'autunno. L'inverno trascorse anch'esso nell'accanito lavoro preparatorio di grandi avvenimenti e Lan sapeva quello che sapevano tutti i compagni del suo gruppo, ma non di più. Nella città c'erano altri gruppi come il suo, ciascuno operante nell'ombra, ma coloro che conoscevano il funzionamento dell'intero meccanismo rivoluzionario erano ignoti a tutti. Chi erano? Dove erano? Mistero. Ai Wan si sentiva parte di una grande organizzazione segreta nelle vene della quale scorreva sangue, il battito del cui cuore gli adepti sentivano, il cui cervello funzionava senza che nessuno sapesse come e per quali vie. E tutto quello che nella vita passata era parso sostanziale, ora perdette importanza. Ai Wan non pensava più alla sua famiglia, ben sapendo che sarebbe venuto un giorno in cui avrebbe dovuto rinunciare a tutti i suoi parenti per rispondere all'appello della morte. Infervorato, si sentiva quasi sempre all'altezza del suo compito. Quando lavorava, quando era come preso nella segreta forza vitale del movimento, parte viva della grande energia specifica chiamata a sanare tutti i mali del popolo, egli pensava: perché dovrei salvare la vita anche di mio padre, quando so benissimo che egli sarebbe il primo a far condannare a morte in Lan e uomini del suo stampo, neppure davanti a me esiterebbe. Questo era davvero un tempo nel quale i vincoli del sangue erano superati da altri più profondi, in un'epoca nella quale gli uomini scavavano fra di loro abissi incolmabili. Il sangue, anziché unire, poteva dividere coloro che persistono sulle vie note e gli altri che invece sentono potente l'impulso a battere vie nuove. Muovendosi, agitandosi, davanti e indietro, Aiwan sentiva che l'abisso si faceva ogni giorno più profondo. Qualche volta, nelle notti d'inverno, nel silenzio del suo letto, dietro le tende tirate, egli giaceva fantasticando, con l'impressione che un oceano cominciasse a dividersi, lentamente, dal profondo. La superficie, quella era ancora liscia e intatta, ma giù, nel profondo, una spaccatura senza fine andava allargandosi finché un giorno nessun ponte avrebbe più potuto colmarla. Essa avrebbe segnato la divisione fra due specie di gente, più che fra due razze diverse. Il signor Ranald, ad esempio, e la professoressa Maitland, entrambi di razza bianca, non sarebbero figurati nei medesimi ranghi. Ranald e il padre di Aiwan sarebbero stati da una parte, mentre in Lan e Miss Maitland avrebbero fatto causa comune con l'altra. Aiko sarebbe stato dalla parte di suo padre, perché si sarebbe sentito più sicuro e così la madre e la nonna. Altre piccole creature come Peonia sarebbero state spinte dal caso. E solo allo scoccare dell'ora a ingrossare questa o quella parte in contrasto. Tutti, peraltro, nessuno eccettuato, sarebbero stati travolti dalla grande ventata. Lui, Aiwan, sarebbe stato con Enlan e con loro sarebbero stati tutti gli altri, gli uomini e le donne del loro gruppo e gli ignoti degli altri gruppi. E poi avrebbero potuto contare sui poveri, sui contadini, sugli operai delle fabbriche, sugli apprendisti nelle ditte e nelle botteghe. E infine sarebbero stati con loro gli altri giovani e le donne di altri paesi di cui non conoscevano la lingua, ma che militavano, anch'esse, anima e corpo nei ranghi dei devoti alla causa di Enlan. Quando era in gioco una fraternità come quella, perché mai egli, Aiwan, doveva restare attaccato ai casuali vincoli del sangue? I vecchi sistemi erano passati, quelle meditazioni lo fortificavano ogni giorno di più. Gli pareva di alzarsi ogni giorno come una spada tratta dal fodero e infondeva l'ardore dei suoi sentimenti a tutti i giovani del suo gruppo. Durante l'inverno, ad onta dei venti gelidi e della pioggia, il gruppo era salito di numero fino a comprendere 37 adepti. Aiwan li conosceva tutti per nome, conosceva l'ubicazione esatta dei loro ricoveri che si aggrappavano come scaglie di un enorme pesce attorno agli stabilimenti. In un primo tempo tutti gli erano parsi uguali, erano tutti così pallidi, così esangui, coi volti segnati dalle occhiaie profonde e scure, dalle bocche smarrite. Anche i loro racconti erano monotamente sempre quelli, benché quegli uomini fossero nati in regioni diverse. Ma c'erano comuni fra di loro i motivi che li avevano spinti fino a Shanghai. Le guerre, le carestie, le molte tasse di reggitori avidi e iniqui, tutti i racconti si somigliavano. Quando uno diceva: ero l'ultimo nato di un agricoltore con meno di 2 acri di terra, come potevo vivere sul suo prodotto? Gli altri non potevano mica smettere di mangiare solo perché io ero nato. Riepilogava in sostanza la storia di tutti. Tutti erano rifluiti verso il mare, seguendo il corso del fiume, alla foce del quale, come una gran rete, era Shanghai. Quando raggiungevano Shanghai non potevano andare più in là perché il fiume sfociava nel mare e così erano finiti come paria nelle fabbriche. Quando Aiwan seppe la misura della loro paga e come per essa d'inverno lavorassero da un'ora antelucana fino a notte inoltrata, così che era loro permesso di vedere la luce del sole soltanto in estate, sentì il petto gonfiarglisi di sdegno. Cambieremo, cambieremo tutto questo, gridò fremendo. Uno degli uomini disse: perché dovrebbero pagarci di più quando tanti altri reclamano quello che ha dato a noi? Non è ragionevole. Anche questo Aiwan doveva combattere, questa loro mitezza d'animo. Parlavano rozzamente, non uno di loro che sapesse leggere o scrivere, i loro modi erano animalmente semplici. Quando si fossero trovati davanti a un ricco sarebbero stati umili e sottomessi non tanto per paura quanto per timidezza, convinti com'erano che gli dèi li avevano creati diversi. Aiwan si sforzava con ogni mezzo di rompere l'incanto di quella timidezza. Voi valete come non importa chi, gridava loro, avete gli stessi diritti degli altri. Ma frasi come quella ridevano bonariamente e rispondevano con una mitezza rassegnata che faceva digrignare i denti ad Aiwan. Dite questo per pura bontà? Insistevano con urbanità. Noi sappiamo bene che non siamo niente. Ma Aiwan non poteva non amarli per la fedeltà con la quale si sforzavano di imparare quello che gli andava loro insegnando. Per imparare dovevano compiere miracoli di astuzia, abbandonando le fabbriche con la compiacente sostituzione di altri durante 1 ora o 2, e a furia di provare, verso la fine dell'inverno erano riusciti a marciare con una certa disciplina e tutti erano diventati dei discreti tiratori. Aiwan provvide a sue spese alle cartucce e si erano orgogliosi dei loro progressi, ma come bambini non vedevano l'ora di indossare una divisa. Una volta, saggiando con le dita la stoffa della divisa di Aiwan, gli domandarono: ci sarà dato un giorno vestire panni così caldi? Sì, rispose Aiwan, sì, ve lo prometto, vestirete tutti i panni caldi e mangerete tutto quello che vorrete. Era una gelida notte invernale, chiara di luna. Tutti gli si strinsero attorno ed egli ebbe vergogna del suo pesante pastrano. Per un momento desiderò di esserne privo, di aver freddo anche lui come loro. Ecco, egli era lì, caldo e ben vestito, con lo stomaco pieno di cose buone che loro non avevano mai nemmeno visto e che egli invece mangiava ogni giorno. Sentii lacrime ardenti sgorgargli dal ciglio. I loro sguardi ora, quando egli parlava, non erano più così spenti come in passato. Una vaga luce talora li illuminava, una luce di speranza. Ma quelle facce patite gli spezzavano il cuore. Il vento agitava i loro stracci di cotone e agghiacciava le ossa anche a lui. Fra sé si disse: se la casa di mio padre fosse mia, ne spalancherei le porte a questa povera gente. E poi pensò: non servirebbe a nulla lo stesso, entrerebbero a ranghi compatti, la casa ne sarebbe piena e ancora altri ne affluirebbero a milioni. No, anche se tutte le case dei ricchi si fossero spalancate, non sarebbero bastate ad accogliere tutta quella poveraglia. I poveri riempivano la terra. Quando suonerà l'ora? Domandò un uomo. Aiwan lo conosceva benissimo. Era un povero diavolo che tossiva sempre, certo votato a rapida fine. Presto, disse, molto presto, forse in primavera. No, la sola cosa che avrebbe potuto salvarli era un mondo rinnovato, un mondo fatto per i poveri più che per i ricchi, un mondo nel quale le leggi dovevano tendere a distribuire la ricchezza, a proteggere il debole contro la predatrice azione dei forti. Non trattenetevi qui oltre, disse loro, andate a letto. Quando parli, disse una voce dall'ombra, ci sentiamo più caldi. come se avessimo mangiato qualche cosa. Buonanotte, buonanotte! Esclamò Aiwan. Non reggeva più allo spettacolo dei loro sguardi, aveva il cuore troppo gonfio. Quella notte, per quanto fosse tardi, non gli resse l'animo di passare subito da quella miseria all'abbondanza di casa sua. Preferì camminare a lunghi passi per le gelide strade semideserte che attraverso quella parte della città conducevano alla sua scuola. Desiderava farci una capatina per discorrere con Elan. Trovò l'amico solo nella sua stanzuccia, occupato non già a studiare ma a leggere con attenzione uno scritto fittissimo. Quando Aiwan entrò, nascose il foglio. «Avanti!» disse. Che vuol dire quella tua faccia da funerale? Elan non era mai d'umore cupo, gli occhi neri gli brillavano nel volto e pareva che facesse fatica a trattenere il riso. In quei giorni pareva particolarmente allegro, rideva per nulla, come intimamente pervaso da una gioia segreta. Torno da... Aiwan si interruppe, la regola era di non parlare mai forte di cose inerenti alla loro attività clandestina. Sedette sulla branda di ferro, prese un foglio di carta e vi scrisse sopra: Quando credi che il giorno debba davvero arrivare? Non oltre la fine del terzo mese del nuovo anno, scrisse in risposta Enlan. Prese il foglietto, accese un fiammifero e lo bruciò, poi ne soffiò via la cenere. Fuori c'è la luna, te la senti di fare una camminata? Domandò Aiwan. Aveva bisogno di sentire un poco dell'esuberante sicurezza di Enlan e anche un po' della sua durezza. Elan era duro, sicuro e mai commosso per alcunché. Gli fece un cenno d'assenso, s'alzò, si infilò il pastrano e il berrettone di pelo di coniglio come usano i contadini del nord. Poi prese il foglio che aveva messo sotto un libro, lo piegò, avendo cura che Aiwan non lo leggesse, e bruciò anche quello, soffiandone via le ceneri. Ciò fatto, uscirono entrambi sulla via. Giriamo di qui al riparo dal vento, propose Enlan. In una notte come questa il vento strappa le parole e le porta ad altre orecchie. Svoltarono per un viale tranquillo che già conoscevano per precedenti convegni, durante i quali avevano discorso accovacciati contro un muro. In Enlan c'era qualcosa che automaticamente eliminava i preliminari oziosi. Aiwan entrò subito in argomento. Come farò a persuadere i miei uomini che si valgono qualche cosa? Domandò. Ho passato tutta la vita fra gente che si credeva preziosa, non solo, ma in diritto di avere tutto. Si interruppe e pensò ad Aiko. Aiko, da quando era nato, non aveva mai compiuto nulla di buono. Non aveva fatto altro praticamente che mangiare e dissipare, persuasissimo con tutto ciò di essere una persona eletta. Quei poveri. Poveri, proseguì Aiwan, credono, non so come, di meritare di essere poveri e non riesco a persuaderli che hanno tutto il diritto di vivere. Non mi riesce neppure di ispirar loro fiducia in se stessi. Dicono semplicemente chi è ricco e chi è povero, destino. S'aspettava che Enlan ridesse, ma Enlan non rise. La luna gli illuminò il viso cupo e quando parlò la sua voce risuonò grave. Hai toccato il nocciolo della questione. La nostra vera difficoltà non è costituita dai ricchi. I ricchi si possono uccidere e le loro ricchezze si possono portar via. Il guaio sono quelli nati in una povertà così squallida da togliere loro fin la speranza. Prima che credano, bisogna che abbiano qualcosa in mano, denaro, cibo, qualche cosa di tangibile. Tacque un momento e poi... Tu, Aiwan, sei un idealista. E lì sta il tuo lato debole. I poveri non valgono più dei ricchi. Aiwan lo guardò. Che cosa diceva mai? Ma allora perché si lavora tanto per loro? Domandò. Ora Enlan rise. Credi davvero, insistette, che se qualcuno di quei poveri fosse nella casa di tuo padre, egli acconsentirebbe a dividere i suoi beni con gli altri? No. Si ravviò i capelli lunghi e arruffati e poi... Peggio di tuo padre sarebbero. Non fosse altro perché tuo padre non si è mai trovato nella condizione di dover essere un animale. Preparati. A che cosa? Quando la festa sarà finita e la massa si stupirà di vedere che non rimarrà più nulla, allora toccherà a noi intervenire e costringerli all'ordine con la forza. Con la forza? Domandò Iwan. Credevo che tutti dovessero essere liberi. Liberi. fece eco in Lan con voce sorda. La libertà che sogni è una sciocchezza. Nessuno è libero. Sono libero io. E tu lo sei? Noi lavoriamo secondo una norma prestabilita e così lavoreranno quei poveri. C'è un uomo. Chi? Domandò Aiwan. I loro discorsi non si erano mai spinti così in là. Uno, rispose Lan, un uomo grande. Ma chi è? Insistette Aiwan. E Lan si chinò e gli bisbigliò qualche cosa all'orecchio. Egli sentì l'alito dell'amico proprio contro la guancia. E Chiang Kai-shek, il capo dell'esercito rivoluzionario! Ci fu una pausa. E Lan proseguì. Quando entrerà a Shanghai sarà il gran giorno. I piani sono pronti. Fra 20 giorni scoppierà lo sciopero generale. In questo frattempo i lavoratori avranno modo di portare a compimento e di perfezionare gli ultimi particolari. Gli operai attaccheranno dall'interno mentre Chiang Kai-shek attaccherà dal di fuori. Così era scritto nel foglio che ho bruciato. Erano ordini segreti. Insomma, abbiamo seminato e ora è prossimo il raccolto. Lo scopo dei nostri sforzi sarà raggiunto per il nostro paese, una patria rigenerata. Sedettero su di una panchina, rabbrividendo un poco alla brezza notturna e al loro interno fuoco. La luna calava, un alto muro proiettava la sua ombra nera sul viale, cosicché essi erano al buio, ma quel buio non era nulla, non contava. I loro occhi si fissavano nella luce radiosa di quel che stava per avvenire, del giorno in cui il bene avrebbe raddrizzato tutti i vecchi torti. Aiwa lo vedeva, il vittorioso esercito del bene era ormai tutto riunito, già attendeva. Si ricordò d'aver visto una fotografia di Chiang Kai-shek nella sua divisa rivoluzionaria. Quella volta aveva pensato: somiglia un poco a Adelan. Lo sguardo ardito e chiaro era il medesimo e così la forte faccia contadina. Ora, pensandoci, il suo fantasticante idealismo si concentrò su quella figura. Un uomo come quello, così giovane, così forte, così pieno di una nobile potenza, comandava l'esercito dei giovani e dei forti e improvvisamente si sentì quasi soffocare da qualche cosa. Lacrime o riso non sapeva, balzò in piedi. Sono contento che tu mi abbia detto quello che mi hai detto, disse. Ora lavorerò di maggior lena e saremo tutti pronti. Ellan non rispose, s'alzò anche lui e ripresero la passeggiata giù per il viale, tenendosi per mano. Che mano curata che hai, disse Enlan curiosamente. Non hai mai lavorato? Intendo in senso manuale, non è vero? No, rispose Aiwan. Aveva soggezione, sentiva la mano callosa dell'amico e dopo un poco ritrasse la propria. Però mi sento forte abbastanza, disse. All'ingresso della scuola lasciò Enlan e si diresse verso casa. Strano come il senso di oppressione con cui era andato dall'amico ora lo avesse abbandonato. E Lan aveva sempre quel potere sopra di lui. Il guaio era che lui, Aiwan, si lasciava spesso vincere dallo scoraggiamento, mentre Lan non conosceva questo sentimento. Per Lan il presente non contava, quello che contava era l'avvenire. Ora, Aiwan poteva pensare ai paria percossi dal vento gelido con pietà, ma senza più strazio. Poveretti, pensò, mi rallegra il pensiero che almeno per qualche tempo avranno la libertà di prendere quello che meglio loro piace. Si introdusse per il portello del giardino, entrò in casa e salì al piano superiore. Strano sarebbe stato lo spettacolo di quelle stanze sontuose invase dalla poveraglia che avrebbe strappato le tende, che avrebbe asportato i tappeti, rubando e saccheggiando. Gli sarebbe forse rincresciuto? No, si disse con forza. No, perché dovrebbe rincrescermi? Non mi è mai importato nulla di queste cose. A questo punto sentì qualcuno che piangeva. Tese l'orecchio. Era Aiko che frignava come un ragazzo. Attraverso la soglia della stanza del nonno usciva una striscia di luce e prima che Aiwan potesse rendersi conto di quanto avveniva, vide l'uscio della sua camera aprirsi e uscirne Peonia. «Ti ho aspettato!» disse a bassa voce. «Sei atteso dal nonno? Aiko ne ha fatta una grossa!»